Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, finalmente siamo insieme, sono le 11.07, Fabio Cantadori in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, ecco i temi del giorno. Unghie, unghiette e unghiacce, perché si rompono, si incurvano o cambiano colore. Osservare per apprendere. Diventare mamme all'Aquila. Consistenza, forma e colore, tre variabili importanti per valutare la salute delle nostre unghie, argomento della puntata di oggi. Voi descrivetecele, segnalateci eventuali alterazioni, il numero verde come sempre a vostra disposizione 800 24 0024, con l'aiuto dei nostri esperti vi aiuteremo a capire l'origine del vostro problema e vi suggeriremo il modo migliore per affrontarlo. Ci aiuta oggi la dottoressa Sandra Lorenzi, direttore scientifico dell'IDE, che è l'Istituto Dermatologico Europeo di Milano. Dottoressa Lorenzi, buongiorno e benvenuta. Grazie Nicoletta, buongiorno a lei. Dottoressa, ne abbiamo 20 e sono tutte fatte di cheratina, la stessa sostanza dei capelli, anche di una parte di acqua. Ma le unghie delle mani e quelle dei piedi hanno caratteristiche differenti. Partiamo ad esempio dalla consistenza. Quelle delle mani sono spesso unghie fragili, quelle dei piedi hanno molto spesso il problema opposto, perché sono spesse. Allora, partiamo dal definire che la lamina anguleare in realtà è una struttura molto complessa, molto più complessa di quello che noi possiamo pensare. Le sue caratteristiche tipiche sono la consistenza, l'elasticità e la flessibilità. Sì. E la durezza e la resistenza della lamina angueale è proprio legato al contenuto in cheratine dure. Cheratine dure e aminoacidi solforati, particolarmente la cistina, quindi esiste proprio una differenza in cheratine dure tra le lamine delle mani e le lamine dei piedi. È anche chiaro però che intervengono dei fattori che tendono molto a modificare la consistenza delle unghie col passare del tempo. I nostri piedi, ad esempio le unghie dei piedi, sono costrette dentro le scarpe, quindi sono soggette a microtraumatismi continui e ripetuti nel tempo, e l'unghia questi si difende spessendosi. Certo. Ok? Mentre le unghie delle mani sono sottoposte a tutto ciò che noi facciamo, quindi lasciamo stare l'estetica, smalti, non smalti, ma anche il fatto che le laviamo sicuramente molto spesso, o non utilizziamo delle protezioni quando e se facciamo dei lavori casalinghi, insomma, la sottoponiamo, brava, le sottoponiamo a uno stress che induce molto spesso sicuramente un aumento della loro fragilità. Veniamo invece alla seconda variabile che considereremo anche nel corso della nostra trasmissione, che è il colore. L'unghia sana è rosata, ma spesso, dottoressa Lorenzi, la colorazione può assumere sfumature, diciamo, che vanno dal bianco al violaceo passando per il giallino, un colore che è più frequente nelle unghie dei piedi. Il giallino è un grosso guaio. Allora, diciamo così, il giallino a volte può essere presente anche nelle unghie delle mani e devo dire che è abbastanza tipico di chi usa gli smalti molto colorati. Nei piedi il giallino può essere soltanto legato a un aumento della consistenza dell'unghia che tende a dispersirsi, sì, e quindi assume tipicamente quel colore, ma in realtà esistono molte patologie e tra queste soprattutto i miceti, i funghi, che inducono un cambiamento di questo tipo, quindi bisogna fare particolare attenzione a questo colore. Dottoressa Lorenzi, vogliamo parlare anche di forma? Anche in questo caso alcune alterazioni sono più tipiche delle unghie delle mani e altre di quelle dei piedi. La forma, beh sì, le unghie tipicamente hanno una forma abbastanza caratteristica, di solito abbastanza simile sia nelle unghie delle mani che nelle unghie dei piedi. È anche vero però che esistono delle diversità che sono soprattutto magari più tipiche in età pediatrica, la cosiddetta coelonichia, in cui l'unghia ha questo particolare praticamente aspetto a vetrino d'orologio. Esistono delle unghie che possono assumere degli aspetti triangolari oppure aspetto praticamente bombato quando esistono particolari patologie tipo l'ipocratismo digitale. In realtà le unghie sono uno specchio molto importante di quello che è il nostro corpo. Allora, dottoressa Lorenzi, rinnoviamo l'invito ai nostri ascoltatori a osservare con attenzione l'aspetto delle loro unghie, perché alterazioni nella forma, abbiamo detto anche nel colore, o problemi come ad esempio un'eccessiva fragilità, possono segnalare carenze, essere la spia di disturbi, anche che con le unghie non hanno proprio nulla a che vedere. Per questo, come lei anticipava, si dice appunto che siano lo specchio della nostra salute. Quindi osservate colore, guardate la forma della lamina e anche la sua superficie, chiamateci 824 0024. Vi anticipo che parleremo anche di ricostruzione, se l'avete fatta, se pensate di farlo, soprattutto in vista dell'estate. Direi di approfittare dei consigli dei nostri esperti per fare scelte oculate, indicazioni mirate anche per chi sta facendo i conti con un'unghia incarnita o con unghie che si spezzano, assumono brutte forme. Noi siamo a vostra disposizione, 824 0024, se invece preferite scriverci 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso voglio parlarvi di una ricerca molto interessante che spiega le ragioni che stanno alla base del piacere che le persone provano nell'osservare i loro simili in azione. Non è solo curiosità, o almeno lo è solo in parte. In linea con noi la professoressa Alice Mado Proverbio, professore associato di psicobiologia e psicologia fisiologica all'Università di Milano Bicocca. Professoressa, buongiorno. Salve. Allora, guardando si impara, e non è un modo di dire, la scienza lo conferma. Esattamente, infatti guardando le azioni e i gesti dei nostri conspecifici siamo in grado di apprendere non soltanto nuove abilità tecniche oppure musicali o anche sportive, ma siamo anche in grado di interpretare il comportamento degli altri, in particolare le intenzioni dei gesti altrui. Infatti il nostro cervello decodifica automaticamente lo scopo delle azioni degli altri, anche lo stato d'animo, attraverso un particolare sistema di neuroni sensomotori, che sono detti neuroni specchio, che si attivano non soltanto alla vista dei movimenti altrui, ma che sono anche in grado di controllare i nostri stessi movimenti. Così quando per esempio noi osserviamo qualcuno che dà un calcio a un pallone, in parte si attivano nel nostro cervello gli stessi neuroni che controllano il nostro corpo quando siamo noi stessi a calciare il pallone. Ecco perché troviamo così piacevole, così remunerativo guardare gli altri, per esempio che giocano a calcio, fanno sport, mentre magari noi siamo comodamente seduti in una panchina allo stadio. Infatti ci sono molti sportivi di questo tipo. Ma professoressa, veniamo alla vostra ricerca. Voi avete analizzato le attività cerebrali di studenti universitari, maschi e femmine, mentre osservavano diapositive di persone impegnate in movimenti dinamici rispetto a diapositive di persone ritratte in pose statiche. In pratica avete cercato di capire che cosa si attiva osservando l'immagine di una persona che salta o si tuffa rispetto ad una in cui si vede, che so, un giocatore di scacchi. Esattamente, quindi noi abbiamo misurato l'attività bioelettrica in gruppi di donne e uomini, sostanzialmente studenti universitari, e abbiamo osservato che durante la percezione di immagini molto dinamiche, come appunto gesti sportivi, l'attività bioelettrica era molto diversa rispetto alla situazione di percezione di pose statiche, soprattutto nel cervello dell'uomo, che probabilmente si rispecchia maggiormente nel movimento dinamico, in particolare da quelle azioni caratterizzate da un evidente sforzo muscolare. In questa situazione nel cervello maschile si attivavano regioni della corteccia dette motorie e premotorie, che normalmente codificano il movimento stesso della persona. Invece nel cervello della donna si mostrava un'attività bioelettrica legata, diciamo, a un interesse generalizzato per le figure umane, quindi un interesse per le persone, per l'aspetto affettivo e relazionale delle scene, diciamo, sociali in cui si trovavano. E invece una minore, diciamo, sensibilità alla tensione muscolare o l'aspetto, diciamo, atletico. Questa differenza tra i sessi naturalmente potrebbe essere di tipo non solo biologico ma anche semplicemente culturale, ecco. E professoressa, sicuramente il vostro studio è un'ulteriore riprova delle differenze tra cervello maschile e femminile, per fortuna direi, perché confrontando due punti di vista differenti il mondo si guarda e si conosce meglio. Che dice? Esattamente, queste differenze sono note tra l'altro anche nei primati, quindi la presenza di queste differenze di sesso nei primati supporta l'ipotesi biologica, cioè una differenza tramandata geneticamente. Mi piace raccontare un interessante studio fatto sui cercopitechi, sono delle scimmiette africane. Sì. È stato osservato il comportamento dei piccoli cercopitechi mentre giocano con giocattoli umani. E si è visto che mentre le scimmiette femmine preferivano utilizzare delle bambole per praticare delle operazioni parentali come la pulizia, lo spulciamento, così, i piccoli maschi invece preferivano giocare con macchinine e palline che lanciavano e poi si gettavano, su cui si gettavano come in una specie di caccia. Ecco, quindi questa differenza che noi vediamo anche nei primati potrebbe quindi risalire ai nostri, genitori sostanzialmente. Professoressa, allora continuiamo a guardare, ad imparare. Io intanto la saluto, la ringrazio per essere stata in nostra compagnia e soprattutto la ringrazio per la sua chiarezza. Buona giornata. Arrivederci, salve. Pronto soccorso. Tirate fuori le unghie, oggi parliamo di loro, chiamateci subito al nostro numero verde 824 0024, in nostra compagnia la dottoressa Sandra Lorenzi, abbiamo Silvia che ci chiama da Firenze, buongiorno Silvia. Buongiorno, senta, io ho un figlio di 11 anni sì. che da quando è nato ha questo, ha le unghie molto deboli, sono molto deboli e hanno l'aspetto dello screpolato, quindi questa è la cosa che io vedo, con queste linee verticali che si notano un pochino di più, ecco, questa sorta di spaccature nelle unghie, non è fortissimo, accentuatissimo, però io continuo a vederlo e poi giocando a calcio ogni quando guarisce un'unghia, un alluce che ha perso l'unghia, diventa nera e ha perso l'unghia, le succede a quell'altro, quindi è un continuo. È un continuo, anche perché è proprio l'età in cui i ragazzini giocano a pallone, si sentono campioni, giustamente. Silvia, chiediamo subito alla dottoressa Lorenzi un consiglio, perché queste unghie così zigrinate, insomma? Beh, allora, io ho sentito poco perché sentiva poco, devo dire la verità, comunque, la zigrinatura, diciamo così, della lamina in età pediatrica è una condizione che generalmente viene riferita ai traumatismi. Sì. Allora, dobbiamo ricordare che la lamina ungueale nei bambini è molto fragile, molto più fragile, acquista consistenza man mano che passa il tempo. Sì. È infatti abbastanza tipico nell'età neonatale pediatrica osservare anche delle calzette bianche nelle unghie dei bimbi, legate proprio ai traumatismi che ricevono i bambini quando si appoggiano, toccano le cose. La zigrinatura è un aspetto di fragilità. Allora, bisogna vedere se è estesa praticamente solo alle unghie delle mani o interessa anche alle unghie dei piedi, nel sì. senso che esistono delle patologie come la trachionichia. La trachionichia vuol dire praticamente sembra unghia a carta vetrata. Sì. Infatti diceva appunto che le unghie, io ho detto zigrinate, ma in realtà la mamma specificava meglio naturalmente di me che sembravano screpolate. Perfetto. Ecco. Infatti ricorda abbastanza praticamente la trachionica. La trachionica o 20 nail dystrophy, definita così, è un aspetto particolare della lamina caratterizzata da un'importante fragilità legata proprio ad una infiammazione della matrice dell'unghia. Sì. La trachionica è solo segno espressivo di fragilità. Quindi della non lamina. C'è da preoccuparsi. Non ma c'è da preoccuparsi. Silvia, immagino che Silvia nella sua domanda voglia anche dire che cosa si può fare, anche perché abbiamo il problema del piede e non è solamente un problema dei ragazzini che giocano a calcio, ma in genere delle persone che praticano sport. Perfetto. Allora, volevo solo dire che la trachionica in realtà può essere anche espressione molto spesso e riscontrarsi anche in alcune malattie dermatologiche, quindi vorrei dire una cosa alla mamma. Il bambino forse va osservato, l'aspetto della lamina non è una cosa preoccupante assolutamente, ma forse va osservato nella sua globalità per vedere se esistono altre patologie concomitanti. La lamina va molto idratata con creme ricche in urea, sì. che sono le uniche che riescono praticamente a penetrare attraverso la lamina e ad ammorbidire le cheratine e quindi a migliorarne l'elasticità. Sì. Okay? Per quanto riguarda invece questa unghia del piede che diventa nera e poi ricresce e poi di nuovo, insomma, questa è di un tipico, il tipico ematoma, il tipico trauma dei calciatori, di chi fa jogging, di chi sì. praticamente piano piano, lentamente, sbatte il primo dito contro la scarpa e quindi l'unghia riceve degli insulti continui, si forma un ematoma subungueale. L'ematoma sotto l'unghia non si riassorbe, bisogna che consideriamo che l'unghia non è come la nostra pelle, l'ematoma rimane lì. L'ematoma rimane lì, distacca la lamina ungueale e quindi può provocare proprio la caduta della lamina, ok? Quindi l'unghia ricresce, ma è chiaro che se subisce un altro insulto abbiamo un circolo vizioso continuo, quindi in realtà bisogna cercare di proteggere bene il primo dito dagli insulti. Come si fa? Sono dei cappucci in silicone. Vede. Molto semplicemente, ecco. Che cercano di che proteggono proprio la lamina dallo sbattere contro la scarpa. Dottoressa Lorenzi, noi abbiamo detto che il colore sarà una delle variabili che analizzeremo nel corso della nostra trasmissione, perché abbiamo accennato alle unghie gialle, ma possono anche essere rosse, violacee, nere, non solo quando prendono un colpo, e questo vi dice molto. Ma il colore è una variabile su cui lavora anche la medicina tradizionale cinese, che inserisce proprio l'osservazione delle unghie tra i propri mezzi diagnostici. In linea con noi abbiamo il dottor Minelli, vice direttore del centro collaborante dell'OMS per la medicina tradizionale all'Università degli Studi di Milano. Dottor Minelli, buongiorno e bentornato. Buongiorno. Dottore, io prima di parlare di unghie parlerei di dita, perché per la medicina tradizionale cinese ad ogni dito corrisponde un organo e quindi le unghie non sono tutte uguali. No, assolutamente no. Difatti l'osservazione che viene fatta sulle unghie si differenzia in un'osservazione, diciamo, di problematiche, alterazioni del colore, alterazioni della forma, alterazioni del trofismo che possono essere generali, allora in linea di massima vuol dire che c'è qualche problema a livello di quell'organo che secondo la medicina cinese in qualche modo regge il microcircolo, quindi problematiche di fegato quando tutte le unghie sono alterate. Ma se vi sono delle alterazioni settoriali, quindi del pollice, dell'alluce, dell'indice piuttosto che di altro, bisogna tenere conto che ad ogni dito praticamente corrisponde un meridiano e quindi un organo funzione. Ma adesso ce li deve dire perché ci ha messo un po' sul gusto. Scusi, pollice ad esempio, se ho il problema ce l'ho all'unghia del pollice, che cosa può essere? L'unghia del pollice è la mandibola inferiore di quello che i cinesi chiamano la tigre bianca, quindi la tigre bianca corrisponde al polmone e quindi se vi sono problemi solo al primo dito, al pollice, diciamo, della mano, vi è un problema soprattutto di energia. Troviamo questi disturbi presenti, diciamo, in persone che soffrono di problemi di stanchezza, magari di convalescenza. Sì. Li troviamo tipicamente anche ad una certa età, quando l'energia comincia a scendere e si dice che la tigre bianca comincia a soffrire. E certo, anche le tigri bianche soffrono, invecchiano. Sì. Senta, andiamo avanti. Dopo il pollice, quale altro dito analizziamo? L'indice? L'indice che corrisponde al grosso intestino, quindi all'intestino crasso. Qui abbiamo il dito medio praticamente che corrisponde al ministro del cuore, il quarto dito che corrisponde, l'anulare, che corrisponde al metabolismo ed infine l'ultimo dito che corrisponde al cuore e all'intestino tenue. Per quanto riguarda i piedi invece abbiamo il fegato e la milza pancreas collocati sul primo dito, lo stomaco collocato sul secondo, la vescica biliare collocata sul quarto dito e la vescica collocata al quinto dito. Quindi se il disturbo è localizzato su un'unghia in particolare, il medico di medicina tradizionale cinese fa una diagnosi alternativa rispetto al fatto che invece il problema si manifesti in tutte le unghie. Esattamente, cioè va a cercare un problema che è più collegato ad una disfunzione, diciamo, funzionale relativa ad un particolare organo. Dottor Minelli, io la ringrazio per essere stato con noi, la saluto e le do appuntamento presto. Sicuramente questa lettura delle unghie in relazione al dito mi sarà piaciuta ai nostri ascoltatori e ci racconta qualcosa di più. Grazie, dottor Minelli. Grazie a lei, arrivederci. Andiamo a Bergamo, ci aspetta Bianca, buongiorno. Buongiorno, scusi che sei così. Sì. Io volevo parlare delle mie unghie. Certo, è l'argomento. Zeglinate, cioè tutte righe. Sì. Legate. In più formano, alle volte cambiano, come una fossetta in mezzo all'unghia. Come una fossetta. Allora, dottoressa Lorenzi. Allora, parliamo di unghie delle mani? Parliamo di unghie delle mani, okay. Rigate con delle fossette, quasi un cucchiaino, si chiamano così, vero, le unghie che hanno un una fossetta sulla lamina? Quando praticamente la fossetta interessa, diciamo così, tutta la lamina, sì. Delle fossette diciamo localizzate invece, che si alternano poi a degli stati più rialzati, no? Perché a una fossetta generalmente poi dopo segue un rialzamento. Invece in questo caso di solito parliamo di linee di Bo, che è un'altra cosa. Sì. Striatura, soprattutto nelle persone di una certa età, dalla voce non... Quanti anni ha la signora? Non ce l'ha detto, ma non glielo chiediamo, perché è una signora, direi una signora matura. In questo caso, dottoressa Lorenzi, perché l'età fa la differenza, di solito sì. Dopo insomma intorno alla menopausa le unghie diventano più fragili, si segnano, emerge anche degli sms dei nostri ascoltatori. Dottoressa Lorenzi, si può fare qualcosa prima di andare ai mercati? Beh, assolutamente sì, la fragilità ungueale è un grosso problema, anche perché altera sicuramente molto la manualità. Le unghie hanno una loro importanza nell'attività prensile, quindi l'unghia va ricostituita, e poi anche un bel aspetto della lamina è sicuramente un buon segno di presentazione di una mano, insomma. Quindi creme, come aveva detto lei, a base di urea, per in qualche modo rinforzare le unghie e poi proteggerle anche facendo i lavori di casa con dei guanti, potrebbe essere già questa un'indicazione? Anche se a volte non può bastare, soprattutto quando ci troviamo in un'età matura, a volte l'unghia va ricostituita proprio con un apporto per via sistemico, quindi bisogna dare all'unghia ciò che gli viene a mancare, quindi lipidi e aminoacidi solforati, e vedere poi se ci sono anche stati carenziali di ferro. Eccoci qui, in nostra compagnia la dottoressa Sandra Lorenzi, che è direttore scientifico dell'IDE, l'Istituto Dermatologico Europeo di Milano. Dottoressa Lorenzi, leggo uno dei tanti messaggi che stanno arrivando. Alessandra da Vicenza ci scrive: ho 40 anni, le mie unghie si sfaldano come pasta sfoglia, uso smalti appositi ma non miglioro. In linea con noi abbiamo anche Giuliana, che ci chiama da Ancona. Giuliana, buongiorno. Buongiorno a lei. Giuliana, io spero di sapermi spiegare con la dottoressa. Anche io non uso smalti, non, quindi le mie unghie sono tranquille, libere così, ma mi si sfaldano e quando crescono, ma di poco, sì, diventano doppie, praticamente si sfaldano, poi dovendo si rompono, sì, tagliandole chiaramente ogni volta che le taglio l'unghia mi si abbassa e quindi mi rimane il polpastrello scoperto, che è una, no, non ci piace, cioè, non solo noioso, no, ma è anche, mi crea difficoltà proprio, certo, per l'uso delle mani, quindi in qualsiasi tipo di lavoro vado sempre e quindi sono costretta a portare dei cerotti oppure a stare molto attenta. Non riesco a capire la motivazione, soprattutto è il pollice e il medio. Pollice e medio. Dottoressa Lorenzi, anche in questo caso un problema di fragilità. Le unghie fragili si spezzano e si sfaldano. Diciamo che è un passo avanti di quella che è una semplice fragilità, nel senso che l'espressività clinica della fragilità è molto variabile. E questo descrittivo ricorda quella che viene definita come onicoschizia lamellina. Mamma, cioè, ma certo che avete dei nomi bruttissimi, come mai? Beh, il greco per spaventarci, No. Onicoschizia lamellina, proprio perché è quella schizia che ci sfaldano lamelle, certo, come diceva la signora, a pasta sfoglia. A pasta sfoglia, perfetto. Sì, ha ragione, nel senso che oltre a essere un disagio estetico è proprio un disagio funzionale, rimane scoperto il polpastrello e fa veramente male. L'indice e il medio, cioè, il pollice e l'indice sì, sono in realtà poi le dita che si usano di più, nel prendere le cose, nel tenere anche in mano una penna. Sono di solito le prime tre dita sono di solito le più colpite dalla fragilità ungueale. Allora, vorrei essere chiara, esiste sì, anche una predisposizione genetica nella fragilità. È vero che ci sono i fattori che precipitano il peggioramento, quindi l'età, i lavori domestici, il contatto con l'acqua, però è anche vero che esistono delle persone che hanno questa fragilità sin da giovane età, okay? Quindi già dai 20 anni iniziano ad avere delle lamine più fragili, perché è chiaro, la struttura della lamina è legata alla struttura delle cheratine, e quindi esiste proprio una predisposizione in un certo senso individuale o genetica ad andare incontro alla fragilità proprio per alterazione di questa struttura, certo, delle cheratine, ok? A questo punto cosa si fa? Noi pensiamo, quando le unghie si spezzano, si sfaldano, insomma sono fragili, pensiamo sarà un qualche carenza, mi mancherà qualcosa. Ecco, mi mancherà qualcosa, bisogna fare subito una precisazione. Allora, ci sono gli aminoacidi più rappresentati nell'unghia, sono 3, e sono l'arginina, l'acido glutamico e la cistina. Sì. Okay? Poi ci sono praticamente degli oligoelementi, e i più rappresentati sono il ferro e lo zinco. Sì. E il calcio non c'entra niente con le unghie. Facciamo questo qui. Mito, sì. Questo famoso mito dove dire queste chiazze bianche, mio medico mi ha detto che sono legate a carenza di calcio. Non c'entra. Assolutamente, non esiste alcuna relazione fra le proprietà meccaniche della lamina e il suo contenuto in calcio. Anzi, sembra che le tracce di calcio che si ritrovano nelle unghie originino da contaminazioni ambientali. Ok? Quindi invece sono più il ferro e lo zinco. Assolutamente. Una carenza di ferro può determinare un importante assottigliamento della lamina ungueale, quindi in realtà attenzione al contenuto di cistina, in realtà attenzione al contenuto in ferro, e esistono degli studi scientifici dove elevate dosi di biotina determinano un miglioramento della lamina ungueale soprattutto nel periodo della post-menopausa. Ma in pratica quindi che cosa dobbiamo fare? Fare gli esami del sangue per vedere che cosa manca? Cerchiamo di venire un po' a capo del problema, oppure vado in farmacia e prendo qualche integratore? Allora, io direi che degli esami del sangue possono avere una loro valenza soprattutto nella ricerca del ferro, ok? Sì. Quindi valutare sicuramente il valore della sideremia è importante, soprattutto se esiste una fragilità delle unghie che può essere associata eventualmente anche a una fragilità dei capelli, perché ricordiamoci sempre che le due sono fratelli. Sono fratelli, ecco, dicevo cugini, ma in realtà no, più di cugini, fratelli. Sono fratelli, dei gemelli. Quindi ecco, diamo una valenza una maggiore valenza se abbiamo una fragilità più importante sia alle unghie che ai capelli. Gli esami, a mio parere, non hanno molta importanza, non hanno molto senso. Prendiamo invece degli antigratori mirati, ok? Cioè, quindi cerchiamo proprio quegli aminoacidi e quegli oligoelementi che servono a noi, non quegli integratori dove hanno dentro di tutto, vitamine, perché dopo uno si spaventa, oddio, prendo le vitamine in grasso. Allora prendiamo proprio degli integratori mirati per le unghie, integratori che contengono cistina, arginina, acido glutamico, ferro e zinco. Ok, abbiamo qua, questo è il mix che fa bene alle nostre unghie, è questo. Abbiamo in linea con noi anche Caterina che ci chiama dalla provincia di Venezia. Buongiorno Caterina. Buongiorno. Buongiorno. Caterina, mi lasci però salutare, che ci ha raggiunto, il professor Luca Vagnina, è podologo e presidente della Società Italiana di Podologia. Professore, bentornato. Buongiorno con voi, un caro saluto alla dottoressa Sandra, che rivedo con piacere almeno per telefono. Ripensa. Allora, Caterina, buongiorno, ribuongiorno a lei, siamo pronti. Caterina? Sì, pronto? Siamo qua. Sì, io volevo fare una domanda alla dottoressa Lorenzi. Sì. Perché ho un problema, ma è ormai da diversi anni, che ho le unghie di piedi, quasi tutte, soprattutto quello del piede sinistro, sì, praticamente crescono in spesse. E ho il primo dito del piede, la luce qui, sì, che è più molto grosso, praticamente quasi bombata l'unghia, sì, e diventa gialla. Gialla. E le altre sono un po' contagiate tutte quante, perché praticamente non crescono bene, e non riesco neanche a tagliarle, devo tagliare con un forbicione perché restano, sono durissime. E anche soprattutto una, quella del punto del piede, del piede dell'auto, cioè una di queste, il piede sinistro, mi fa anche male premerla sopra. Oh, allora Caterina, meno male, abbiamo due esperti, le metto a disposizione sia la dottoressa Lorenzi che il professor Luca Vagnina, perché dalla sua chiacchierata abbiamo capito che ha difficoltà a tagliarle, fanno male anche quando premono, poi c'è questa colorazione gialla e questo ispessimento. Allora, dottoressa Lorenzi e poi il professor Vagnina. Sì, perché devo dire che la sequenza è proprio questa. Allora, un paziente con un problema di questo tipo dovrebbe prima di tutto rivolgersi a un medico, nel senso che vanno escluse delle patologie che determinano specificatamente un ispessimento della lamina ungueale, e di solito le patologie più frequentemente coinvolte sono la psoriasi e le onicomicosi. Okay? Quindi i funghi. Brava. E la colorazione giallastra anche lì, insomma, ci fa sospettare, vero? Indirizzare verso questa diagnosi. Basta un semplice esame micologico, ok, per dirimere questa diagnosi. L'esame micologico è un esame che consiste nel? L'esame micologico è un esame che consiste nel nel prelevare materiale del letto ungueale, attenzione, quindi non la lamina ungueale, quello sotto, e visionarlo sia all'esame microscopico diretto e inseminarlo poi in particolari terreni di coltura per vedere se ci sono i funghi, sviluppa una micosi. Perfetto. Okay. Allora, una volta diciamo così fatto questo esame, si valuta poi chiaramente, e quindi fatta la diagnosi ci potrà essere la terapia chiaramente per la patologia, ma è poi importante per il paziente che abbia anche una corretta deambulazione, cioè queste unghie non devono fare male, anche perché se le unghie fanno male il paziente inizia a non camminare bene, ad avere una postura non corretta, e di lì c'è tutta una trafila, certo. E quindi è qui che il dermatologo poi chiede aiuto molto spesso anche al podologo per aiutare i pazienti, e come insegnare a tagliare le unghie. Professora Vagnina, eravamo rimaste alle unghie dei nostri piedi, gialle, spesse e dolenti. Dal dermatologo siamo passati al podologo, e quindi veniamo da lei. Che ci dice? Allora, qual è il nostro ruolo? Innanzitutto, ha detto bene la dottoressa Lorenzi, una valutazione medica iniziale è la cosa fondamentale per escludere tutta una serie di patologie sistemiche che non sono di competenza del podologo. Okay. Il podologo ha un'attività specifica e peculiare in campo topico locale, per cui il fatto che ci sia del dolore già favorisce il ruolo del podologo, in quanto deve scoprire la causa. In genere le onicomicosi, ad esempio, non sono dolenti, per cui se c'è un dolore ci possono essere le patologie associate. Sull'alluce spesso, se l'alluce, come diceva la dottoressa Lorenzi, cammina male nell'ottica della globalità dell'ambulazione, ci può essere una spina, un esosto subungueale, ci possono essere patologie che danno questo dolore, e il compito del podologo è cominciare a togliere le cause meccaniche. Certo. Quindi in primis valutare la valutazione della calzatura per vedere se è congrua e funzionale al tipo di piede e al tipo di camminata. Bene. Secondo, valutare la camminata per vedere se quell'alluce è in iperestensione, quindi ha un'attività eccessiva che va a incidere con forze che si scaricano proprio in quei punti dolenti. Certo. Una volta fatta questo tipo di diagnosi di tipo biomeccanico, il podologo ha dei mezzi che possono evitare che queste pressioni si scarichino in quel punto, che possono essere o una terapia ortesica plantare per cambiare proprio dall'appoggio calcaneare fino allo stacco dell'alluce il modo di lavorare di quel piede, oppure in maniera più selettiva con delle ortoplastie che sono dei dispositivi medici costruiti con dei siliconi speciali. Sì. Che permettono di decomprimere completamente quella zona e cominciare a togliere la causa meccanica del dolore che si è instaurata. Dopodiché, se ci sono patologie sistemiche, il dermatologo le tratta a livello farmacologico, e noi continuiamo a fare un controllo a livello locale. Certo. Andiamo a Maria Grazia, che ci chiama da Alessandria. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, io volevo chiedere sarebbero due o tre cose. Una sono le lunette che ci sono sulle unghie, volevo sapere il significato di queste lunette. Allora andiamo per una per volta, così okay. Chiediamo anche ai nostri esperti di essere molto rapidi. Dottoressa Lorenzi, lunette? Le lunette di cosa stiamo parlando? Della lunula? Sì. Di quello che si vede dalla di quella partina bianca che abbiamo prima che, cioè all'inizio dell'unghia, sì. Cominciando dal dito. La ecco, lunula per è praticamente ciò che si vede della nostra matrice ungueale. E quindi è giusto averla? Che colore deve certo. essere? La lunula deve essere tipicamente biancastra. Proprio perché le cellule della lamina ungueale a quel livello non hanno i nuclei, ok? Allora, Maria Grazia, quindi le lunette le abbiamo messe a posto. Okay. Altra domanda, le macchie bianche che si formano, che diceva prima il calcio non c'entra nulla. Mm. Vorrei sapere che cosa comportano. Piccoli traumi, dottoressa Lorenzi, sono? O allora, bisogna bolle fare, d'aria. Ecco, bisogna fare una differenziazione, attenzione, nel senso che quando parliamo di macchie bianche nelle unghie parliamo di leuconichia. Esistono due tipi di leuconichia: la leuconichia vera, che è legata proprio ad un'alterazione della superficie della lamina, della cheratinizzazione, e generalmente è indotta proprio dal traumatismo. Sì. La cosa più tipica nelle donne di una certa età è il manicure, il fai da te. Sì. Okay? Poi invece parliamo della leuconichia apparente. La leuconichia apparente invece è il colore biancastro che noi vediamo, ma non è legato ad un'alterazione della lamina, è legato ad un'alterazione del letto ungueale. Sì. E qui entriamo in un campo molto particolare perché iniziamo a parlare di malattie sistemiche. Mm. Okay? Però quelle macchioline bianche, le nostre mamme dicevano, dici le bugie, ecco la macchiolina bianca. Ma quella è la leuconichia più puntata o striata che è tipica da traumatismo, da microtraumatismo. Allora, Maria Grazia, una terza domanda? Ho un bambino piccolo. Quando appena è nato, aveva l'unghia dell'alluce, sembrava separata in due. Sì. Adesso a due anni inizia a riunirsi, ma è comunque molto brutta. Crescendo sparirà, diventerà un'unghia normale o comunque rimarrà sempre caratterizzata da questa superficie più brutta? Chiediamo al professor Avagnina. Professore. Ma la dottoressa Renzi è più esperta di me nel campo ungueale perché ne vede a tonnellate. Però da noi vengono più le persone adulte e i bambini tendono a rivolgersi più al dermatologo. Quindi io passerei. Dottoressa Lorenzi. Allora, andrebbe visto. Sì, perché una lamina spezzata a metà può essere solo segno di una fragilità ungueale, ma può essere anche segno di alterazioni delle strutture sottostanti, e stiamo parlando anche eventualmente di alterazioni delle strutture ossee. Quindi una piccola radiografia La farebbe, senza allarmarsi. Sì, no, assolutamente. Stiamo parlando soltanto di... Ecco, la lamina è espressione di molte cose, ok? Quindi una lamina praticamente separata, soprattutto alla nascita, deve essere sicuramente riconducibile a un'alterazione, quindi va vista. Io vorrei parlare con il professor Avagnina e naturalmente anche con la dottoressa Lorenzi, gli ultimi paio di minuti a chiusura della trasmissione, dell'unghia incarnita, che è un problema molto frequente. È un problema su cui ciascuno un po' cerca di arrangiarsi, e ci sono delle cose che facciamo proprio per in qualche modo riparare la nostra unghia che possono risultare pericolose, possono costituire la base per recidivare. Professora Avagnina, diamo qualche buona notizia per chi ha sovente l'unghia incarnita o chi, come alcuni ascoltatori mi stanno scrivendo, stanno vedendo le stelle per questo problema. Che cosa non bisogna fare? Ecco, questa è una domanda interessante che si ricollega un attimo anche alla domanda di prima, perché quelli che capitano più nei nostri studi podologici sono bambini, anche quasi appena nati o comunque in tenera età, che hanno già unghie incarnite. Sì. E queste sono dovute a particolari formazioni o disformismi dell'unghia che sono di tipo ereditario congenito, per cui vanno aiutate, perché si possono semplicemente coadiuvare nella loro crescita creando degli spazi, creando delle piccole correzioni. I podologi classici in Italia degli strumenti che si chiamano correttori ungueali, ortonixie, sì, che vanno da barrette di titanio a fili di acciaio che come in ortodonzia mettono un apparecchio all'unghia, insomma, mettono un apparecchietto che ne deforma la forma, ma sì, in senso positivo in questo caso, e permette di correggere quelle eventuali anomalie che erano acquisite o congenite. Altra cosa che si può fare, creano, perché bisogna distinguere innanzitutto l'unghia incarnita vera e propria, che è un'infezione dell'unghia con granuloma, con una serie di conseguenze patologiche, da quella che magari è un dolore sul solco dell'unghia che noi definiamo onicofosi, che sì, è poi un calletto che può essere il preludio anche di un'unghia incarnita, ma è una difesa cornea, come tutte le iperkeratosi, sì, calli che si formano sulla pelle, a difesa di una pressione esagerata. Ecco, lì basta togliere questa pressione in qualche modo con delle turbine eccetera e non c'è bisogno di fare grossi interventi. Quando l'unghia incarnita è conclamata con granuloma e soprattutto è recidivante, a noi arrivano molti operati in ospedale, sì, in cui si è fatto un intervento, io li chiamo sintomatici, in cui tolgono il pezzettino di unghia, questa poi ricresce con la stessa sua caratteristica e si rincarna. In questo caso l'intervento che noi consigliamo è sempre un intervento di onicoplastica, quindi una ricostruzione ungueale attraverso la con però associata a una fenolizzazione dell'unghia, cioè della matrice. Quel, sì, pezzo di unghia che viene trattata va bruciato definitivamente perché non ricresca più. Questo, non se ne esce. Se no, non se ne esce, ma non si fanno più trattamenti, strappano le unghie, cose che si facevano e si sentivano dire una volta. Torneremo con la dottoressa Lorenzi a parlare di ricostruzione delle unghie, non c'è stato tempo, ma ci torneremo. Intanto ringrazio la dottoressa Lorenzi, ringrazio il professor Avagnina per essere stati con noi. Io ringrazio voi e saluto caramente la dottoressa Lorenzi. Altrettanto, ciao caro. Ciao. Allora, noi invece vogliamo rapidissimamente all'Aquila, dove ci aspetta la dottoressa Sandra Di Fabio, che è direttrice del reparto di neonatologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Dottoressa, due secondi, perché veniamo all'Aquila, voi avete messo sotto le tende, avete costruito un reparto pronto ad accogliere le mamme che stanno per partorire e quindi tutto è pronto, ma tra poco, e questo è un segno proprio di ripresa, vi trasferirete di nuovo nell'ospedale. Dottoressa. Sì, questo è vero, è stato confermato fino a ieri anche dalla Protezione Civile, fine mese, entro la fine del mese, i primissimi giorni di giugno dovremmo rientrare sicuramente nel nostro reparto, riprendere quindi a lavorare all'interno della struttura, e nel frattempo noi siamo già operativi dal 6 aprile, ringraziamo per questo la Protezione Civile delle Marche che ci ha aiutato quindi ad ottenere sotto una tenda tutto ciò che ci può serve essere a utile. Una mamma è per mettere alla luce il suo bambino. Grazie per essere stata con noi, dottoressa, e soprattutto questo è un segno della ripresa che continua ad andare avanti grazie al lavoro di tanti volontari, della Protezione Civile, dei medici e degli aquilani che stanno reagendo sempre, come abbiamo visto dai primi momenti, con grande stile, con grande tenacia. Grazie dottoressa, buon lavoro e saluti le mamme aquilane. Buona giornata. Grazie, arrivederci, grazie. Ed oggi è tutto, noi ci sentiamo domani come sempre dopo il GR delle 11. Vi aspetto, buona giornata da Nicoletta Carbone.